Sì, ti adorerò, mai ti ingannerò, ti convincerò che nel nostro amor puoi credere, è impossibile amarti più di me. Sì, ti adorerò, mai ti lascerò. Se pianger dovrai, ti consolerò baciandoti, ripetendoti che voglio bene a te. Tu, con il sogno più splendido che mai finire dovrà, porterai al mio cuore nel bene e nel male il più bel raggio di sole. Sì, ti adorerò e di te vivrò, ti convincerò che nel nostro amor puoi credere, dovrà vivere ora e per l'eternità. Porterai al mio cuore nel bene e nel male il più bel raggio di sole. E di te vivrò, ti convincerò che nel nostro amor puoi credere, dovrà vivere.